Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo alcune informazioni di servizio. Scusate la noia, ma serve a tutti, a noi e a voi. Allora, la prima è il nostro sito radio24.it. Entrateci, vedrete che potrete scaricare anche via podcast o comunque poco dopo il termine della registrazione tutte le puntate di qualunque trasmissione di Radio 24. Entrando nel profilo degli autori e dei conduttori troverete anche, per chi lo ha, un blog. Io ce l'ho, lo conoscete, Guardie o Ladri, e potrete entrarci per consultarlo, leggerlo, proposte. Insomma, a me fa piacere il contatto con i lettori e con i radioascoltatori, l'avrete ormai capito da anni. L'altra informazione di servizio è la nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale segnalare le vostre cose. Sapete che non amo casi particolari, salvo quando rappresentano casi generali, oppure quando hanno come sottofondo una curiosità che francamente lascia, come dire, la curiosità e la voglia smuovono, come sapete, il giornalista. E quindi, ecco, quando sono curiose, come quella che ci ha inviato il nostro radioascoltatore di Bologna, Andrea Cevenini, insomma, lì bisogna andare un pochettino ad indagare. Cevenini, buongiorno. Buongiorno. Allora, il nostro radioascoltatore bolognese ci ha inviato una mail che francamente a me ha fatto sorridere. Non voglio mancare di rispetto ovviamente a Cevenini, però credo che sarà stato lui il primo a sorridere, magari prima ad arrabbiarsi e poi a sorridere per quello che gli è successo. Cevenini, può raccontarlo per piacere? Ecco, la mattina del 30 dicembre sono sceso dalla mia abitazione per prendere la mia autovettura che avevo parcheggiato la notte prima in modo regolarissimo. Ecco, un'autovettura. La sorpresa molto brutta è stata che invece dell'autovettura c'era un tappetino di vetri, piccolissimi infrattumi e nessuna macchina. Allora, lei ha, come chiunque altro, poi lei ha una macchina identica alla mia, una macchina bellissima ovviamente, perché è come la mia, non diciamo la marca, non diciamo il modello, ma comunque una macchina strepitosa. Allora ha detto, ma caspita, me l'hanno rubata, giusto? Sono andato dai carabinieri a sporgere il furto, dall'assicurazione, e poi ho cominciato a sfogliare i giornali per vedere cosa potevo comprare di per sostituirlo. Esatto, se non che... E mi ero già messo il cuore in pace. Invece cinque giorni dopo, il 4 di gennaio... Colpo di scena! Telefonata dai vigili urbani. Colpo di scena, arriva la telefonata dei vigili urbani. Presa loro e dico, perché? Io era regolarissimo il suo parcheggio. C'era un motivo di pubblica utilità. Un secondo che riassumo, perché forse abbiamo perso per un attimo la voce. Cioè, i vigili urbani la informano che la macchina non era sparita, non era stata rubata, ma l'avevano presa loro. Sì. E qual era il motivo di pubblica utilità? Che c'era stata una fuga di gas dal sottosuolo, lì vicino. L'ERA, la società di utilità per il gas, doveva fare un buco nell'asfalto, la mia macchina era d'ostacolo, era pure parcheggiata regolarmente, per cui invece di prenderla e spostarla di 20 metri, che la cosa sarebbe morta lì, l'hanno presa e portata in un lontanissimo garage dove portano le macchine che sono in divieto di sosta o in falso dalla circolazione. Ecco, mi scusi Cevenini, ma lei ha dovuto pagare poi per riprendersi la macchina? Cioè, oltre al danno anche la beffa, perché il danno l'ha subito? Che potevo usare la macchina per andare in vacanza sulla neve o per lavorare, insomma, cinque giorni in cui nessuno mi ha avvisato che la macchina era nell'autorimessa dei vigili urbani. Ecco, ma quando lei l'ha presa ha pagato per prenderla? No, non ha pagato, almeno quello no. E i danni per il suo tappeto di vetri? Me l'ha pagata l'assicurazione. Oh, benissimo, benissimo. Allora il caso è risolto, però rimane la curiosità di un comportamento, direi, abbastanza anomalo a prima vista da parte della Polizia Municipale di Bologna. E io ringrazio davvero il commissario capo della Polizia Municipale di Bologna, il dottor Giovanni Finarelli, che ha accettato volentieri il contraddittorio. Buongiorno Finarelli. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato e soprattutto un saluto al signor Cevenini Andrea. Allora, a me piace scherzare, lei l'avrà capito. Finarelli, voi di notte andate in giro a frantumare i vetri delle macchine dei vostri concittadini oppure ci dica invece che cosa è successo? Cosa è successo? Cerco di essere breve. Era, come è già stato spiegato, ci ha chiamato dicendo abbiamo un problema, c'è una fuga di gas. Ci possono essere dei rischi di pubblica incolumità. Per favore venite subito, toglieteci la macchina che ci crea problemi per cercare da dove arriva la fuga di gas. L'intervento è urgente ovviamente, noi ci siamo recati immediatamente sul posto, abbiamo trovato un'auto con il vetro rotto. Prima cosa abbiamo cercato di capire se il veicolo era rubato, ma il CED, il centro di elaborazione dati dove ci sono tutti i veicoli rubati, abbiamo scoperto che il veicolo non era oggetto di furto. A questo punto abbiamo fatto il controllo sulla proprietà del veicolo, abbiamo visto che era di proprietà del signore Cevenini Andrea e la pattuglia ha suonato al campanello per vedere se riuscivamo a contattare il signor Cevenini. Un secondo Andrea. Cevenini, lei ha sentito lo scampanellio? No, può darsi che dormissi, non lo escludo. Magari in piena notte può succedere, però di dormire. Finarelli, però lei sta dicendo che il vetro in realtà era già rotto. Certamente. Non è un po' troppo facile dire una cosa del genere? Ma è la realtà. È la realtà. Dobbiamo dire la verità. Noi abbiamo trovato, come spesso ci succede, anche perché è chiaro che molte persone rompono i vetri delle autovetture in sosta, soprattutto se sono belle autovetture, non solo per cercare di rubare la carta di circolazione o la polizza assicurativa, che può far comodo, ma anche per vedere nel bagagliaio se c'è la ruota di scorta o se c'è qualcosa di interessante. Di qualcos'altro da rubare, ho capito. Senta Finarelli, però mi pare che rimanga un po', come dire, forse un po' una mancanza di comunicazione nei confronti del Cevenini, cioè diciamo che avete suonato per dirgli prova a spostare la macchina. Finarelli di notte, come accade alla maggior parte degli italiani, dormiva e non ha sentito. Però perché avvertirlo dopo 5 giorni di questo trasporto dell'autovettura, oltretutto molto lontano, e perché in un deposito? Certo. La prima risposta, sì. Il tutto è successo il 30 di dicembre, sì. Quindi è facilmente intuibile che le giornate successive ne incontriamo ben 2 festive, il sì. primo di gennaio sì. e il sì. 3 di gennaio. La seconda cosa, prima di iniziare queste procedure, considera che noi in un anno spostiamo 700 veicoli per motivi di pubblico interesse, fuga di gas, pericolo di caduti alberi, pericolo di crollo di un edificio o delle tegole, insomma, quindi sono numerosi interventi, 700 spostamenti, e noi aspettiamo sempre qualche giorno perché normalmente le persone vanno a ritirare l'auto. Ma se non lo sanno, come fanno? Se noi non lo fanno, ci attiviamo per informarle. È chiaro che sono passati 5 giorni, che possono sembrare troppi sicuramente, però i primi 2 giorni se ne vanno perché normalmente le auto vengono prelevate. Solo a quel punto, trascorsi 2 giorni, quando la depositeria ci comunica che il veicolo è ancora giacente, noi ci attiviamo per rintracciare il proprietario e dirgli attenzione, il veicolo ce l'abbiamo noi. Perché ce l'abbiamo noi e non lo spostiamo di 10 metri? In quel caso era evidente, lasciare un veicolo con un vetro rotto in mezzo alla strada era veramente un controsenso, chiunque poteva a quel punto entrare all'interno del veicolo con la massima facilità e danneggiarlo ulteriormente. Quindi lo avete, anche se non avesse avuto il vetro rotto, devo dirle, noi preferiamo portarle a spese non dell'utente, io penso che questo sia un dato importante, quindi garantire, qualsiasi macchina sia bella che brutta, garantiamo noi la custodia, il veicolo non può essere da nessuno graffiato, danneggiato, certo. O perché no, anche rimosso per altri. E comunque, per fortuna, almeno al nostro simpatico radioascoltatore bolognese è stato rimborsato il danno e quindi almeno questo, e comunque non ha pagato per ritirarlo. Magari provo a dare un suggerimento che in questo momento mi viene in mente, non so se sia applicabile o se sia fattibile, Finarelli, però magari lasciare sul vetro dell'abitazione, visto che voi l'avevate identificata, un bel verbale della Polizia Municipale in cui si dice caro Cevenini, stai tranquillo, magari con un prestampato che vale per lui e per altri, la tua macchina l'abbiamo presa noi, non te l'ha rubata, potrebbe magari essere un'idea da prendere in considerazione. Che ne dice Finarelli? Certamente un'idea da prendere in considerazione. Ribadisco, il signor Cevenini il 15 di gennaio doveva essere di nuovo spostata l'auto per una fuga di gas. va bene, d'accordo. Comunque tutto è bene, ciò che finisce bene. Il caso era curioso, cari radioascoltatori, sappiate che se la vostra macchina scompare non è detto che ve l'abbiano rubata. Prima provate a contattare anche la polizia municipale. Grazie al comandante Finarelli di Bologna, al nostro radioascoltatore Cevenini, in regia Filippo Aureggi, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Carullo vi augura una buona giornata.